Mezzanotte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Che cos'è? L'algoritmo. L'algoritmo. Che introduce una quarta, tra virgolette, dimensione che teoricamente a seconda dell'inclinazione dell'asse può produrre emendamenti all'infinito. Può essere usato anche per altri provvedimenti. Sono una difesa della democrazia, perché questa riforma è una riforma veramente pericolosa e rischia di mettere un uomo solo al comando, modello fascismo o nazismo. Questo è lo strumento diabolico, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, descritto da Calderoli, della Lega per fare dell'ostruzionismo alle riforme, alla riforma costituzionale, alla riforma del Senato. Parla di questo algoritmo con il quale è riuscito a produrre 85 milioni di emendamenti alla riforma del Senato. Pensate voi come sia possibile a volte mettere anche queste intelligenze, queste ispirazioni al servizio di altre cose. Comunque, sentiamo che cosa gli ha risposto Renzi. Credo che un qualsiasi cittadino dica che questo non può esservi un commento a una cosa del genere. Se tu vuoi cambiare le leggi, fai degli emendamenti, 2, 10, 50, 100. Se fai 82 milioni di emendamento, entri di diritto nel campo del ridicolo. Questo allora è il commento di Renzi. Quali sono invece i vostri commenti su questo argomento e poi sui tanti altri che come sempre vi sottoporrò qui a Effetto Notte? Come sempre lo sapete, i vostri canali privilegiati per intervenire qui in diretta sono la pagina Facebook di Effetto Notte, che è lì costantemente per voi, la quale potete aderire con entusiasmo senza indugio, oppure ci sono gli sms che potete inviare al 349 238 6666, quindi o pagina Facebook di Effetto Notte oppure sms al 349 238 6666. Gli altri argomenti sono senz'altro il vertice, dopo quello di ieri, dei ministri degli interni, questa sera ancora in corso quello, il vertice europeo sulla crisi migratoria con i capi di Stato e di Governo. Cosa emergerà? Sicuramente non una soluzione, però già Renzi ha detto che qualche passettino avanti si è fatto, capendo che non è soltanto un problema italiano. Tra l'altro c'è anche una tensione rischiosa, molto pericolosa, che riemerge nei paesi dei Balcani. E poi ci occuperemo anche dell'omicidio di Elena Ceste, vi ricordate? Avvenuto un anno fa, poi ci sono voluti 9 mesi per scoprire il corpo e circa un anno per individuare il presunto colpevole, il marito Michele Buoninconti. Questa sera avremo, siccome c'è stata questa udienza oggi e sono stati chiesti 30 anni di reclusione, avremo il legale di Buoninconti. C'è anche il Papa negli Stati Uniti, un viaggio importante dopo quello fatto a Cuba. Oggi ha incontrato Obama alla Casa Bianca, domani andrà al Parlamento americano, il primo Papa che va a fare visita al Parlamento americano. La cosa particolare è anche a parlare con i vescovi americani di pedofilia. Non perdete un solo minuto di Effetto Notte. Questi titoli: lo scandalo Volkswagen, si dimette l'amministratore delegato, il gruppo affida l'inchiesta a una commissione esterna. Il titolo chiude positivo dopo 2 giorni di crolli. Il vertice europeo sulla crisi migratoria: abbiamo dato una risposta, commenta Renzi, a chi diceva che i migranti sono un problema italiano. Il viaggio del Papa negli Stati Uniti, Francesco alla Casa Bianca, elogia Barack Obama per l'impegno sul clima e parla di pedofilia nell'incontro coi vescovi. Riforme, accordo sul nuovo Senato con 3 emendamenti. PD unito, Renzi dice milioni di modifiche, la Lega è ridicola. Nigeria, l'esercito libera 240 donne e bambini rapiti da Boko Haram, ma la sorte delle 200 ragazze rapite l'anno scorso resta un mistero. L'omicidio di Elena Ceste, l'accusa ha chiesto per il marito, unico imputato nel processo, una condanna a 30 anni di carcere, qui Effetto Notte, più tardi il legale di Michele Buoninconti. Sanità, gli ordini dei medici verso una manifestazione nazionale a novembre dopo la decisione di tagliare gli esami ritenuti inutili. Calcio, in campo questa sera la Serie A, l'Inter a caccia della quinta vittoria. Partiamo quindi dallo scandalo Volkswagen. Oggi sono arrivate le dimissioni dell'amministratore del gruppo, Martin Winterkorn, a seguito appunto di questo scandalo negli Stati Uniti, anche se ha dichiarato di essere innocente, di non aver commesso illeciti. Intanto il consiglio di sorveglianza di Volkswagen ha annunciato una commissione speciale esterna che indagherà sui responsabili delle manipolazioni dei dati. Si tratta di un reato penale che andrà trattato conseguentemente come tale, hanno dichiarato dal gruppo. E le indagini degli Stati Uniti su Volkswagen sono partite da uno studio dell'International Council on Clean Transportation. L'organizzazione americana ha esaminato due macchine Volkswagen e una BMW negli States, mentre in Europa 12 macchine di 6 case automobilistiche diverse, ebbene la maggior parte delle quali ha emissioni superiori agli standard. Così spiega Vincent Franco, uno dei ricercatori, nell'intervista di Livia Zancaner. In Europa abbiamo ottenuto dei risultati molto simili, abbiamo raccolto dati per 12 macchine Euro 6 diesel e abbiamo visto delle emissioni alte per alcune di queste macchine quando erano sottoposte a guida un po' più esigente, che andava oltre di quello che è rappresentato dal ciclo di guida di omologazione in Europa. Questi 12 modelli di quante case automobilistiche sono? In tutto 6 diverse. Avete sottoposto questi risultati europei a qualche autorità? Noi facciamo parte delle discussioni tecniche per la riforma dell'Euro 6, che sarà un nuovo test che si farà su strada. Ovviamente abbiamo presentato questi risultati alla Commissione Europea, che ne era consapevole, soltanto che in Europa non c'è un'autorità come la EPA che possa fare un'indagine indipendente e andare a trovare dei risultati come hanno trovato in America. Il problema è più grosso in Europa riguardo ai motori diesel truccati? A parte l'ammissione di Volkswagen, non c'è evidenza di motori truccati. Si parla di emissioni molto alte, questo è vero, ma può essere legato semplicemente al fatto che il ciclo europeo è molto poco esigente. Quello che è ovvio ed è stato stabilito è che le macchine non sono pulite. Senta, e alcune di queste macchine vengono vendute anche in Italia, secondo i dati che avete voi? Sì, sì, tutte le macchine che abbiamo testato sono macchine comuni Euro 6 che si possono acquistare in qualsiasi paese europeo. Il commento di molti è che questi meccanismi erano comunque già noti, quindi qual è la differenza adesso? La differenza è che c'è stata un'ammissione pubblica da parte di Volkswagen. È molto difficile dimostrare che esistono questi sistemi, ci vogliono delle indagini in profondità. Sicuramente adesso verranno fatte in Europa e in molti paesi. Ora parliamo del vertice europeo sulla crisi migratoria. Arrivando al vertice, a questo vertice a Bruxelles, ancora in corso, vi dicevo, il presidente del Consiglio Renzi ha commentato: abbiamo dato una risposta a chi diceva che i migranti erano solo un problema italiano. E ha anche detto: bisogna intervenire in Africa e Medio Oriente, bisogna ragionare in modo diverso in partenza, ma oggi un passettino in avanti è stato fatto, appunto questo di rendere coscienti anche gli altri paesi europei che non è soltanto una questione italiana. Angela Merkel, la cancelliera tedesca, ha sottolineato: sarebbe completamente sbagliato per l'Unione Europea dire che non possiamo farcela, possiamo, dobbiamo impegnarci di più con il fronte esterno. Intanto continuano ad arrivare persone sull'asse balcanico, da registrare anche 261 persone raccolte a circa 40 miglia ad est di Crotone, arrivate questa mattina nel porto calabrese. Poi torneremo a parlare di questo vertice nel corso di Effetto Notte. Siamo al viaggio di Papa negli Stati Uniti. Francesco è stato accolto alla Casa Bianca con calore dalla famiglia Obama, ha elogiato il presidente americano per l'impegno sul clima e, incontrando i vescovi americani, ha toccato il delicatissimo tema della pedofilia. Di questo ce ne occuperemo più tardi. Invece concentriamoci sulla politica italiana con l'intesa sulla riforma del Senato. La maggioranza trova la quadra sulla riforma costituzionale e presenta 3 emendamenti che sciolgono innanzitutto il nodo dell'elettività dei nuovi senatori. Uno degli emendamenti prevede che ad indicarli saranno i consigli regionali, che dovranno però tenere conto delle scelte fatte dagli elettori al momento del voto regionale. La maggioranza al Senato è solida e stabile, commenta il premier Renzi. Anche la minoranza del PD plaude all'intesa che, dopo settimane di braccio di ferro, ricompatta il partito. Se usiamo il metodo che ha portato all'elezione di Mattarella, non c'è bisogno dell'aiuto di Verdini, commenta Bersani. A Palazzo Madama la battaglia si sposta ora sugli emendamenti. Soltanto il leghista Calderoli ne ha presentati oltre 82 milioni, critica la democratica Finocchiaro. Noi partiamo dall'unità del PD e della maggioranza per costruire, io mi auguro, un consenso vasto sull'approvazione della riforma. Gli 83 milioni di emendamenti presentati da Calderoli francamente mi sembrano una caricatura della democrazia. Se c'è un'intesa con il governo, sono pronto a ritirare gli emendamenti, replica Calderoli. Abbiamo tentato con le buone di cambiare la riforma, non lo hanno capito, adesso proviamo con le cattive. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Spostiamoci sulla sanità, perché sono molte le critiche al decreto al quale il governo sta lavorando per tagliare le prestazioni mediche considerate inutili per risparmiare sui costi della sanità. a scatenare il braccio di ferro tra medici e governo la lista contenuta in un apposito decreto che individua 208 prestazioni specialistiche a pagamento che per essere a carico del Servizio Sanitario Nazionale dovranno soddisfare requisiti specifici. Appropriatezza è il termine utilizzato dal Ministero della Salute. In sostanza, l'esame in questione dovrà essere prescritto solo in presenza di incontestabili necessità. Obiettivo di Palazzo Chigi è quello di evitare gli sprechi quantificati ogni anno in circa 13 miliardi di euro. I medici tuttavia non ci stanno e si dicono pronti allo sciopero. Lo Stato si sostituisce al giudizio del professionista, dice il segretario dell'ANAO, il maggior sindacato dei medici dirigenti, Costantino Troise. Una serie di situazioni che coniugano una diminuzione della tutela pubblica, ledendo il diritto alla salute dei cittadini, e un attacco al ruolo e alla professionalità dei medici dipendenti. Il fronte dei medici non sembra però così compatto. Il problema della prescrizione di esami inutili esiste, dicono dalla COI. Per l'Associazione dei Chirurghi tuttavia vi è il paradosso del rischio del contenzioso legale da una parte e delle sanzioni per la prescrizione di esami inutili dall'altra. Il governo intanto si dice pronto a modifiche del testo tese ad aiutare i medici a difendersi dalle cosiddette cause temerarie intentate dai pazienti. Vincenzo Miglietta, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Economia. Secondo il presidente della Banca Centrale Europea, Mario Draghi, non ci sono al momento rischi per la stabilità finanziaria. Parlando alla Commissione Economica e Monetaria del Parlamento Europeo, Draghi ha detto che sui mercati finanziari è tornata la fiducia. Intanto gli economisti di Standard & Poor's ritengono che l'economia italiana stia uscendo dalla recessione dopo 3 anni e mezzo di contrazione, ma la ripresa economica resterà comunque probabilmente debole perché la scarsa crescita dei redditi e l'elevata disoccupazione continuano a limitare i consumi. Dall'estero, in Nigeria, l'esercito nigeriano ha liberato 241 tra donne e bambini sequestrati dal gruppo integralista islamico Boko Haram. La liberazione è avvenuta grazie a raid compiuti in 2 villaggi, Yangurori e Bulatori, riferisce così il sito della CNN. Ma la sorte delle 200 ragazze rapite, vi ricordate, l'anno scorso resta purtroppo ancora un mistero. Di nuovo in Italia con la cronaca, il processo nei confronti di Michele Buoniconti, il vigile del fuoco accusato dell'omicidio e dell'occultamento del cadavere della moglie Elena Ceste. L'accusa ha chiesto una condanna a 30 anni oggi per lui e più tardi avremo qui effetto nota il legale di Michele Buoniconti. Ma il tempo, ve ne sarete accorti, soprattutto nel nord, la perturbazione atlantica che da ieri è presente appunto sul nord della penisola si approfondisce gradualmente verso le regioni centrali, continuando a portare tempo perturbato che poi si estenderà dalla serata sulle regioni meridionali e insisterà domani su quelle del medio versante adriatico. Poi sapete che durante effetto notte sentirete anche le condizioni meteo. Notizia embargata, e voglio raccontarci, cioè questa notizia che fino a una certa ora non si può dare perché prima deve essere pubblicata sulle riviste, su certi siti. Lo smalto dei denti, il materiale più duro prodotto dal corpo, ha avuto origine dalla pelle e solo molto più tardi ha colonizzato, diciamo così, i denti. A svelarne per la prima volta l'origine evolutiva sono i ricercatori dell'Università di Uppsala, svedese, e Pechino. In uno studio pubblicato sulla rivista Nature, combinando dati paleontologici e genetici, gli studiosi coordinati da Tatiana Aitina, appunto dell'Università di Uppsala, hanno scoperto che lo smalto dentale è nato come modifica di cellule della pelle. Per chiudere, c'è il nostro Dario Ricci che, oltre ad aver acquisito questa, diciamo, informazione scientifica, ci darà informazioni invece sulla Serie A in campo. Dario? Beh, quasi più interessante le notizie che arrivano da Uppsala rispetto a quello che si sta vedendo questa sera sui campi di Serie A, cara Roberta, perché siamo intorno alla mezz'ora di gioco e pensate, tutte le gare ancora sullo 0-0. In realtà qualcosa si è visto perché pochi istanti fa a Torino il Frosinone è andato vicino al vantaggio colpendo un palo e anche protestando per una deviazione con un braccio in aria da parte di un difensore bianco-nero. Però risultato appunto ancora sullo 0-0, sullo 0-0 anche la capolista Inter che ospita il Verona. Da segnalare che tra i veronesi si è infortunato in un contrasto con Felipe Melo Pazzini ed è stato sostituito da Siligardi, quindi già ne mancano parecchi al Verona, persa anche la seconda punta più importante dopo Toni, già assente per infortunio. Comunque mezz'ora di gioco, ancora stiamo aspettando il primo gol di questa serata di Serie A. Allora aspettiamo da Luigi e poi vediamo se si smuove qualcosa, tra poco ci risentiamo. Intanto sulla pagina Facebook di Effetto Notte, a proposito sempre della questione Volkswagen, Maurizia scrive: la genialata tedesca è questa, i greci hanno truccato i conti e noi trucchiamo le auto. Potete continuare a scrivere i vostri commenti sia sulla pagina Facebook di Effetto Notte oppure inviare messaggi sui vari temi di questa sera al 349 238 66 3466 viabilità. A tra poco. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Stavo guardando i vostri messaggi. Sergio da Napoli scrive al 349-238-6666: emendamenti, ostacoli politici per fermare una dittatura strisciante. Renzi si lamenta. Sergio, quindi, è d'accordo con gli 85 milioni di emendamenti, 85 milioni della Lega, che sono stati spiegati da Calderoli, che ha elaborato con un algoritmo molto complesso. E noi adesso ci occuperemo di altro tra poco. Andremo a capire che cosa sta succedendo al vertice europeo dopo quello di ieri, sempre sulla crisi migratoria. Intanto vi ricordo quali sono le notizie più importanti della giornata. Lo scandalo Volkswagen, si dimette l'amministratore delegato, l'Unione Europea chiede che indaghino tutti in Europa, Berlino si difende e dice: noi non sapevamo di queste manomissioni. E poi Francesco, Papa Francesco alla Casa Bianca oggi nel suo viaggio negli Stati Uniti. Obama dice: lui è il Papa della speranza. E Papa Francesco dice: sono qui come un figlio di emigranti, Dio benedica l'America. Europa 24 notte. Allora, parliamo adesso del vertice europeo dei capi di Stato e di Governo. Ieri, in sede di vertice dei ministri dell'Interno dell'Unione Europea, è stato deciso, ne parlavamo proprio ieri, un piano di ricollocazione dei migranti con delle quote obbligatorie. È stato votato a maggioranza, non all'unanimità, perché i paesi del gruppo denominato V4, cioè Ungheria, Repubblica Ceca, Slovacchia e Romania, hanno votato contro. Intanto ci sono dei dissapori tra i paesi dell'Est, perché per esempio la Polonia non si è unita a questi paesi che hanno votato contro. Oggi, dicevamo, c'è l'altro vertice, ieri quello dei ministri dell'interno, oggi quello dei capi di Stato e di Governo, che ancora è in corso e che però più o meno doveva semplicemente ratificare quello che è stato deciso ieri. Sentiamo però come ha commentato il vertice, arrivandovi e quindi sapendo già, insomma, che più o meno di cosa si doveva discutere, il presidente del Consiglio italiano Matteo Renzi. Il nodo non è il numero, il nodo è se c'è una politica europea o se non c'è. A me sembra che oggi sia un passettino in avanti, ancora un passettino in avanti. Vince la posizione dell'Italia, che dice: non potete immaginare che siano soltanto i paesi di frontiera. Di fatto si va verso il superamento di Dublino, poi diranno: no, non si supera, scriveranno nel documento che non si supera, ma la realtà è più forte dei documenti. Quindi Renzi ha fra l'altro detto: abbiamo dato una risposta a chi diceva i migranti, lo dicevo dall'inizio, sono soltanto un problema italiano. Quindi superamento di Dublino, Sergio Nava. Ciao Sergio. Ciao Roberta. Secondo le bozze circolate in serata, no. Nel senso, che Renzi diceva documenti, probabilmente si riferiva alla bozza di conclusioni che è circolata poco prima del vertice, dove invece si diceva: mantenendo al momento, rispettando i regolamenti di Schengen e di Dublino. C'era un momento, se ricordo bene, il che voleva dire: per adesso rispettiamo le regole, poi nel caso le rivediamo. Quindi diciamo che è più al momento una speranza quella di Matteo Renzi, che probabilmente poi avrà un seguito, anche perché è evidente ormai che l'Europa sta già muovendo avanti. La situazione al momento è un po' strana, nel senso che ci sono i paesi dell'est, quelli che si sono più opposti, come la Slovacchia, l'Ungheria, la Repubblica Ceca, solo per citarne alcuni, che ancora puntano i piedi contro la decisione di ieri. La Slovacchia ha detto che intende fare un ricorso legale. C'è una polemica fortissima all'interno dei socialisti europei, perché Pittella, che è il capogruppo, vuole estromettere il partito del premier slovacco dai socialisti dopo i commenti razzisti che ha fatto. E dall'altro lato però ci sono Commissione Europea, Presidenza di turno e i grandi paesi che vogliono andare avanti, un po' come diceva Renzi poco fa, e continuare a lavorare su ciò che resta da fare per le politiche, sul pacchetto anche proposto dalla Commissione Europea per le politiche di immigrazione. Di questo si parla stasera, perché si parla soprattutto degli aiuti anche da dare ai paesi dove arrivano per primi i migranti, la Turchia, la Giordania, solo per citarne alcuni, alle agenzie dell'ONU. E come rafforzare anche le agenzie europee, come ad esempio Frontex. Quindi da un lato c'è ancora chi frena e dall'altro c'è invece chi vuole andare avanti. Quando dice Renzi siamo arrivati praticamente al superamento di Dublino, intanto ci ricordi questo accordo di Dublino, in cosa consiste? Sì, tra l'altro non c'è un solo accordo di Dublino, lo stesso Dublino è stato rivisto, però per dirlo in soldoni, sì, ricordiamo, è che quando un immigrato, sia profugo, richiedente asilo, eccetera, arriva all'interno nel primo confine europeo, nel primo paese europeo, deve fare richiesta di asilo lì, quindi nel porto di entrata, nel paese di ingresso. Questo ha chiaramente negli anni portato un carico molto forte sui paesi d'approdo, praticamente. Come l'Italia, la Grecia, la Spagna, poi anche l'Ungheria recentemente, che chiaramente per la rotta dei Balcani. Esatto, sono trovati a dover far fronte e a dover teoricamente più che altro registrare queste richieste di asilo, teoricamente, perché poi la stessa Commissione Europea ha mandato una lettera a Roma alcune settimane fa dicendo: a noi risulta che ne registrate uno su tre, gli altri due su tre non li registrate. Insomma, qui era un escamotage, pare, per cercare di mandarli oltre, fermino in Italia. Questo accordo di Dublino è sicuramente sbagliato, però anche è vero che gli stessi paesi che poi dovevano tecnicamente applicarlo, i paesi di approdo, non l'hanno fatto, hanno chiuso un po' gli occhi. Senti Sergio, quando il presidente del Consiglio europeo oggi, Donald Tusk, ha detto che il tema più urgente è come ritrovare il controllo delle frontiere europee, secondo te? Mi stupisce un po' il ritrovare, nel senso che forse non c'è mai stata una frontiera europea. Tusk in questo sbaglia, nel senso che finora le frontiere europee sono state frontiere nazionali all'interno dell'Unione Europea, quindi ritrovare, forse più che ritrovare, è trovare il controllo delle frontiere europee, perché su questo l'Italia effettivamente insiste da anni e non ha mai avuto probabilmente il peso politico specifico per imporre la sua visione, però l'Italia, come la Grecia, come la Spagna, il problema è che siamo stati abbastanza abbandonati a noi stessi. Ma cosa significa impedire quindi l'ingresso dei migranti? Non so, è una frase... una frase ovviamente un po' sibillina. Io penso che semplicemente intendesse dire avere una gestione integrata e veramente coordinata e veramente europea delle frontiere, non abbandonare, lasciare tutto al caso, lasciare che ogni paese faccia un po' a sé e abbia il suo carico ma avere delle vere e proprie frontiere europee. Devo dire, Renzi prima diceva, l'abbiamo ascoltato, vince la posizione italiana. Diciamo che la posizione italiana ha vinto nel momento in cui questo problema si è presentato alle porte di Germania, di Gran Bretagna, di Ungheria e di Francia, eccetera. Cioè, quando quest'estate si è capito che eravamo di fronte a un movimento epocale, a quel punto è entrato di peso nell'agenda europea. Fino a quel momento noi e gli altri paesi più coinvolti probabilmente non abbiamo avuto il peso politico specifico di farci ascoltare. Già. Ma senti, tra l'altro, questa tensione nei paesi dei Balcani, no? la Serbia, l'Ungheria, la Slovenia, rischia un po' di riaccendere, secondo alcuni, l'odio, no? che risale, diciamo, poi quando è scoppiato nella guerra dei Balcani degli anni 90. C'è un po' questa paura che tensioni, invidie, nazionalismi possano riesplodere proprio per questa pressione di migranti, chi chiude i muri, chi non vuole far passare, chi dice perché allora li fai venire solo da me. Potrebbe essere un rischio. Speriamo sicuramente di no. Chiaramente l'atteggiamento di alcuni paesi orientali, e la Slovacchia è forse l'ultimo caso più eclatante, perché si parla molto d'Ungheria, ma anche le posizioni espresse dal premier slovacco non sono poi così dissimili in termini tra virgolette razzisti. Di certo siamo di fronte a paesi che pagano tra virgolette anche un retaggio di un lascito comunista, di socialismo reale, società molto chiuse, e quindi affrontano maggiore difficoltà anche movimenti di questo genere, anche per problemi culturali, se vogliamo. Quello che volevo aggiungere, che non volevo dimenticare, che invece c'è anche quello è successo oggi, mi sposto tra Ungheria e Germania, c'è una bizzarra, se vogliamo, tensione politica all'interno dell'establishment tedesco, perché Orban oggi è andato dalla CSU, dai socialdemocratici, primo ministro ungherese, dal partito cristiano sociale bavarese, e dove di fatto è stato portato ad esempio dal leader della CSU e premier bavarese Seehofer. Peccato che Seehofer sia alleato della Merkel. La CSU bavarese e la CDU tedesca sono partiti chiamati sister parties, partiti gemelli anche nella coalizione. Ricordiamo che Orban è di estrema destra, no? Il primo ministro ungherese. Una forte tensione politica all'interno dell'establishment politico tedesco, perché abbiamo paradossalmente Angela Merkel e i socialdemocratici allineate a livello nazionale sulle politiche di immigrazione, pur con qualche tensione c'è stata negli ultimi giorni, però sostanzialmente allineati, e abbiamo i più stretti alleati di Angela Merkel, i bavaresi della CSU, che invece stanno appoggiando e portano addirittura ad esempio le politiche di Viktor Orban a livello europeo. Quindi ci sono dei movimenti abbastanza strani, forse dovuti anche all'afflusso di immigrati che c'è stato a Monaco e Baviera nelle ultime settimane, che chiaramente Monaco e Baviera è stata la città più su cui il carico ha pesato di più, non dimentichiamolo. Però questo sta creando un grande imbarazzo tra Berlino e Monaco di Baviera, proprio per quello che è avvenuto oggi stesso, cioè la visita di Viktor Orban. Tra l'altro vedo che sui media tedeschi circola un altro motivo di imbarazzo per la Germania, che è quello di alloggiare migranti a volte in strutture più o meno direttamente legate ai lager nazisti, insomma, e quindi la polemica, le evocazioni. Intanto ci fermiamo qui, grazie Sergio Nava. Grazie a voi, ciao. Europa 24 notte, in collaborazione con Euronet Plus. Ci prendiamo adesso una pausa di ricreazione. Ringrazio Sergio per il suo messaggio. Vi ricordo che il numero per i messaggi è 349-238-6666, oppure le vostre opinioni le potete scrivere direttamente sulla pagina Facebook di Effetto Notte. Ci lasciamo brevemente, dopo però parliamo con il legale del marito di Elena Ceste, accusato dell'omicidio, e oggi è stata richiesta una condanna di 30 anni di reclusione. Notte, le notizie in 60 minuti. Roberta Giordano, sempre con voi, i vostri messaggi anche che continuano ad arrivare. Dice per esempio Michele, i messaggi che arrivano sia sulla pagina Facebook di Effetto Notte sia al 349-238-6666. Dice Michele: cara Roberta, spiegami cosa vuole raggiungere Calderoli a parte l'ostruzionismo. Forse sarebbe meglio chiederlo a Calderoli direttamente, caro Michele. E poi gli altri messaggi a dopo, perché fra pochissimo vi aggiorno con Dario Ricci sulle partite. Sono finiti i primi tempi di tutte le varie partite che ci sono di Serie A in campo e poi ci addentriamo dentro altri argomenti, ma prima vi ricordo i titoli più importanti. Lo scandalo Volkswagen, si dimette l'amministratore delegato, il gruppo affida l'inchiesta a una commissione esterna, il titolo chiude positivo dopo due giorni di crolli. Il vertice europeo sulla crisi migratoria, abbiamo dato una risposta, commenta Renzi, a chi diceva che i migranti sono un problema italiano. Il viaggio del Papa negli Stati Uniti, Francesco alla Casa Bianca elogia Barack Obama per l'impegno sul clima e parla di pedofilia nell'incontro con i vescovi, e ne parleremo anche noi tra poco. Riforme, accordo sul nuovo Senato con 3 emendamenti, il PD è unito, Renzi dice milioni di modifiche, la Lega è ridicola. Nigeria, l'esercito libera 240 donne e bambini rapiti da Boko Haram, ma la sorte dei 200 ragazze rapite l'anno scorso resta un mistero. L'omicidio di Elena Ceste, l'accusa ha chiesto per il marito unico imputato nel processo una condanna a 30 anni di carcere. Effetto Notte, più tardi ci sarà il legale di Michele Boninconti. Sanità, gli ordini dei medici verso una manifestazione nazionale a novembre dopo la decisione di tagliare gli esami ritenuti inutili. E per la Serie A, ecco Dario Ricci in campo. Dario. Sì, sono l'unico in campo perché le squadre sono al momento negli spogliatoi. Invece due golletti si sono visti in questi primi tempi, tutti allo stesso minuto, al 35esimo. Al 35esimo appunto la Lazio è passata in vantaggio sul Genoa per 1-0 grazie al colpo di testa di Djordjevic. Nello stesso minuto il Sassuolo è passato sull'1-0 sul campo del Palermo grazie a uno splendido destro a giro potente e preciso di Floccari. Ancora 0-0 l'Inter, che non riesce a sfondare a San Siro il bunker del Verona. Ancora 0-0 per la Juventus contro un Frosinone che a Torino è andato vicinissimo al gol alla mezz'ora, palo di Castiglio, e poi i laziali hanno protestato anche per un tocco di mano sospetto da parte di Barzagli. Roberta. Grazie Dario Ricci, veramente un sunto molto efficace, poi ci ricolleghiamo naturalmente tra un po'. Diciamo una musica musichetta piuttosto briosa ha accolto il Papa nel giardino della Casa Bianca con Obama. La sentite? Parliamo del viaggio del Papa negli Stati Uniti, naturalmente. È stato accolto ieri sera, ora italiana, da Obama all'aeroporto. Poi oggi era la Casa Bianca, sentite appunto l'accoglienza, anche c'è stato un calore particolare dalla parte della famiglia Obama. C'erano circa 20.000 ospiti, non so dove l'avranno messi, evidentemente la Casa Bianca è molto grande, avrà anche questo parco immenso intorno. Ne parliamo con, prima di tutto, con Marco Valsania, corrispondente del Sole 24 Ore degli Stati Uniti. Marco, buonasera. Ti sei anche tu un po' così alleggerito con questa, pure da una certa iniezione di energia, eh? Quanto è durato questo incontro? 27 minuti mi sembra, questo colloquio con Obama oggi. Sì, il colloquio a porte chiuse, il colloquio privato, senza la partecipazione dell'orchestra e di altri ospiti. Dell'orchestra, di altri ospiti esterni, è durata tra mezz'oretta. Barack Obama e il Papa, come accennato, hanno affrontato temi che sono alla fine cari a entrambi, cioè l'ambiente, l'immigrazione, la tolleranza e la lotta alla povertà. Ecco, sono temi che caratterizzano un po' questa vita di Papa Francesco negli Stati Uniti e che lo vedono in sintonia, si può dire, con il presidente statunitense, un presidente che ha messo l'accento proprio su questi temi comuni, appunto, complimentando il Papa, ricevendolo con tutti gli onori di un capo di Stato e con un atteggiamento di aperta ammirazione. Papa Francesco, come ricordavi, ha ringraziato Obama per il suo impegno sull'ambiente, in particolare esplicitamente. Ecco, e finito l'incontro alla Casa Bianca, come ricordavi tu, ha continuato poi quello che è un vero e proprio tour de force sulla costa orientale degli Stati Uniti. Se vuoi possiamo ricordarne le tappe. Sì, tra l'altro domani è ancora lì a Washington, no? Va al Parlamento americano, se non sbaglio, lì al Congresso. Assolutamente, assolutamente. Il primo Papa a intervenire al Congresso americano, a Camere riunite, un intervento sicuramente storico, anche perché dovrebbe toccare anche lì argomenti che sono temi che sono di attualità e che sono anche scottanti, seppur con i toni che si appropriati al Papa. Ecco, temi però che hanno anche un contenuto politico, come è emerso dal primo incontro anche con Obama. Possiamo dire che il Papa, anche in questa visita americana, in questo americano, scuote le coscienze, come anche la politica. I conservatori americani non hanno fatto mistero del loro scetticismo, della loro difficoltà, diciamo, davanti a questo Papa. Un deputato repubblicano ha detto che diserterà il discorso a Camera, cattolico, diserterà il discorso del Papa. Non sono mancate così altre prese di posizione dei candidati repubblicani alla presidenza. È andato del comunista e lui ha detto: no, io seguo la Chiesa. Senti, a parte i temi, poi continueremo a parlarne anche con Carlo Marroni, vaticanista del Sole 24 Ore, ma la sfida per la sicurezza del Papa poi com'è andato? Piuttosto bene, quindi, visto che è tutto tranquillo, no? Si temeva che terroristi travestiti da poliziotti potessero creare dei problemi, sì, diciamo così. Sì, devo dire che sta andando tutto in maniera molto tranquilla e con un grande entusiasmo popolare, come puoi immaginare, che comunque circonda la visita di questo Papa, diciamo, piuttosto straordinario per molti aspetti. È stata preparata anche con un'estrema attenzione. La Casa Bianca ha lavorato per molti mesi a mettere a punto tutti i dettagli possibili della sicurezza, diciamo, dietro le quinte, oltre che di tutto la scenografia e la parte, diciamo così, pubblica della visita. Quindi, ecco, uno sforzo è stato quello da parte dell'amministrazione americana per accogliere Papa Francesco, che probabilmente ha pochi paragoni, pochi paralleli. Senti, comunque c'è stato un certo entusiasmo da parte degli americani, mi sembra di capire, al di là dei repubblicani del Congresso. Sì. Sicuramente questo è un Papa che appunto tocca le coscienze, si avvicina alla gente comune. Nel suo viaggio ci sono vari momenti, diciamo, oltre che quelli con i potenti. Poi appunto verrà dopo il congresso, poi verrà a New York a parlare all'ONU, ma ha anche molti momenti diciamo a forte carattere emotivo. pranzerà con i senza tetto e con i poveri in una mensa delle associazioni caritatevoli cattoliche a Washington. Poi quando si trasferisce a Filadelfia nel weekend visiterà, ha messo in chiaro che visiterà un penitenziario dove si incontrerà con i carcerati. Ecco, le sedie tra l'altro su cui si siederà nel penitenziario e anche durante una messa al Madison Square Garden a New York sono fatte una direttamente da carcerati che lavorano in un laboratorio interno al carcere, l'altra al Madison Square Garden da immigrati di fresco arrivo nel paese da lavoratori stagionali. Chiaramente molto simboliche. Tra l'altro vedo una cosa buffa di una petizione che viene sottoposta al Papa, sta raccogliendo 2000 firme perché benedica la metro di Washington, perché vari imprevisti, inconvenienti sono capitati finora. Insomma, vedete, le richieste sarebbero infinite. Grazie intanto a Marco Valsania dagli Stati Uniti. Ciao. Grazie Marco. Ciao. Ciao. Oh, continuiamo a parlare con Carlo Marroni, vaticanista del Sole 24 Ore. Ciao Carlo. Ciao Roberta. Perché poi il Papa ha incontrato nella cattedrale di Washington i vescovi americani. Si sa che i vescovi americani da una parte sono piuttosto conservatori, critici nei confronti della sua linea, così piuttosto aperta, ma c'è stato anche il grosso problema della pedofilia, no Carlo? Sì, diciamo, il discorso che ha fatto oggi la cattedrale di San Matteo, che è la cattedrale principale insomma di Washington cattolica, la cattedrale dei presidenti, lì anche un luogo importante perché dal punto di vista proprio americano, c'erano 350 vescovi e ha fatto un discorso lunghissimo, anzitutto, forse il discorso più lungo da quando è Papa, il discorso pubblico da quando è Papa, ma proprio è durato tanto, un discorso molto complesso e ricco diciamo una mini enciclica è stata definita, perché ha affrontato i temi chiave. Hai detto giustamente la Chiesa americana, i vescovi americani sono tradizionalmente, ora diciamo sempre un po' volgarmente, conservatori per la gran parte, e devi considerare che circa la metà dei, forse un po' meno della metà dei cattolici americani, sono 70 milioni, ormai sono ispanici, però solo per esempio il 10% dei vescovi è di origine ispanica, nel senso che c'è ancora una fortissima impronta occidentale, questo è anche un tema. E sappiamo che questo Papa invece viene dal sud del mondo e quindi diciamo così, c'è nell'episcopato americano questa forza che cristianesimo uguale occidente, un paradigma che questo Papa ha spezzato. Questo è un po' diciamo il corollario che avvolge un po' l'episcopato americano. Lui è andato a fondo su tanti temi, sostanzialmente quello che ha detto ai vescovi americani è basta fare battaglie, voi siete dei vescovi battaglieri che state sempre in trincea, che per voi diciamo così avete questa forte identità che però diciamo così non è quella di noi pastori cattolici. Questo è un po' tra le parole, ha affrontato il tema della pedofilia e ha detto che la Chiesa americana diciamo questa tragedia l'ha vissuta, l'ha sedimentata, come si dice, l'ha digerita, l'ha pagata anche in senso pecuniario e ora diciamo così ne sta pagando un po' così le ferite che si stanno rimarginando. Ha detto mai più accadono queste cose e voi dovete vigilare. Quindi ha trattato veramente tantissimi temi e ha ringraziati dell'aiuto che danno la Chiesa nel mondo, perché per esempio la Chiesa americana è la maggior contributrice proprio dal punto di vista di soldi che manda in giro per il mondo, ma di gran lunga, e questo dice grazie che insomma alla fine fate anche delle cose buone per il resto del mondo che magari ha meno soldi di voi. Grazie Carlo Marroni e proseguirà come avete sentito il viaggio del Papa. Grazie intanto Carlo. Grazie a te, ciao. Ciao. Viabilità. Autostrada Pedemontana, la prima e unica senza caselli. Scoprila su pedemontana.com. Vi presenta... Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Al 349-238-6666 scrive Umberto da Genova: il signor Calderoli non ha idea di cosa sia un algoritmo e nessuno sarà in grado di spiegarglielo, bravo Renzi a definirlo ridicolo. Beh, anche se lui dice di averlo utilizzato e ha prodotto 85 milioni di emendamenti per la riforma, per la proposta di legge sulla riforma del Senato. Comunque adesso nel frattempo andiamo avanti su altri argomenti, parleremo di questo fatto di cronaca che tiene l'attenzione piuttosto alta da un anno, all'incirca da poco più di un anno, ma prima vi ricordo quali sono anche le altre notizie. Lo scandalo Volkswagen, si è dimesso l'amministratore delegato, l'Unione Europea chiede che ci sia un'inchiesta che indaghino tutti, Berlino intanto, il governo tedesco si difende. E poi Francesco alla Casa Bianca, ne abbiamo appena parlato, della visita del Papa a Obama e negli Stati Uniti e del fatto che proseguirà poi nei prossimi giorni. Accordo per quanto riguarda la politica italiana sul nuovo Senato in 3 emendamenti. PD si è unito, Bersani esulta, Renzi dice milioni di modifiche, la Lega è ridicola. E poi i migranti, il vertice ancora in corso a Bruxelles, un po' la resa dei conti con i ribelli dell'Est, Renzi dice oggi è stato fatto un passo avanti. I medici contro il disegno di legge per gli esami, per tagliare gli esami inutili, pronti allo sciopero, a una manifestazione a novembre. E poi c'è questa cosa piuttosto buffa, Happy Birthday è di tutti, è una storia che va avanti da anni, del copyright delle due sorelle che la inventarono nel 1893 nel Kentucky, Mildred e Patty Hill, da 2 anni al centro di una battaglia legale. Ora il colpo di scena, un giudice federale di Los Angeles ha sentenziato che non c'è il copyright e che la canzone la possono cantare e suonare tutti quanti. Quindi vi dicevo, parliamo adesso dell'omicidio di Elena Ceste. Elena Ceste è la donna di 37 anni di Costigliole d'Asti, madre di 4 figli, che era scomparsa da casa il 24 gennaio del 2014. Si ipotizzò dapprima una fuga, le indagini sono spinte fino a Tenerife, addirittura poi si pensò a un suicidio, poi cominciò a prendere corpo l'ipotesi che potesse essere stata uccisa e il suo corpo venne ritrovato 9 mesi dopo, il 18 ottobre scorso, dell'anno scorso, per caso, era poco distante dalla sua abitazione in un canale di scolo. Il 29 gennaio di quest'anno c'è stata la svolta, vi ricordate, ne abbiamo anche parlato qui a Effetto Notte, che è stata rappresentata dall'arresto del marito di Elena Ceste, Michele Boninconti, vigile del fuoco di 45 anni, che è accusato di omicidio volontario, occultamento di cadavere con l'aggravante dei vincoli familiari. Secondo l'accusa, l'uomo riteneva che Elena fosse una moglie, una madre inadeguata, una donna infedele, inaffidabile, dedita a coltivare rapporti virtuali col computer e quindi da raddrizzare, è stato usato questo termine. E sempre secondo l'accusa, Michele Boninconti ha messo in piedi un castello di menzogne e ha cercato di depistare gli inquirenti. E oggi la PM, la pubblica accusa, Laura Deodato, durante il processo, ha chiesto nella sua requisitoria di oltre 4 ore, ha chiesto una condanna per Boninconti a 30 anni di reclusione. Lui si è sempre dichiarato innocente. Ne parliamo con il suo legale, l'avvocato Giuseppe Marazzita, che saluto e ringrazio. Buonasera. Buonasera. Quindi, oggi come è andata questa udienza? Perché so che poi hanno parlato gli avvocati di parte civile, la difesa invece avrà il suo turno il 7 ottobre, no? Sì, diciamo che oggi noi abbiamo ascoltato la requisitoria del Pubblico Ministero e poi le arringhe delle parti civili. Diciamo il mio interesse era concentrato soprattutto sulle argomentazioni, sulla tesi ricostruttiva offerta al giudice. Dico questo perché sulla richiesta finale che il Pubblico Ministero ha presentato, diciamo, c'erano pochi dubbi, nel senso che il Pubblico Ministero ha manifestato nel corso delle indagini la sua intenzione, la sua convinzione in questa tesi. Ciò che mi interessava però era capire se ad esempio aveva integrato la sua ricostruzione con le correzioni del Tribunale del riesame, il quale ha escluso in realtà la premeditazione. Perché c'è anche la premeditazione. Sì, è contestata. Il Pubblico Ministero è rimasto su questa linea. Io ritengo che sia questo uno degli aspetti particolarmente fragili di questa ricostruzione. Per il resto il Pubblico Ministero non ha fatto un'analisi cronologica degli eventi, come forse ci si sarebbe attesi, ma si è limitata a richiamare i temi di prova ampiamente noti, anche ampiamente diffusi, concentrandosi in realtà poi sull'aspetto psicologico dei due soggetti, della coppia, sia di Michele sia della povera moglie. Questo probabilmente nel tentare di dimostrare un movente che avrebbe giustificato, che avrebbe indotto il grave reato. Anche se ci sono state, mi risulta, avvocato, delle intercettazioni ambientali in cui appunto Boninconti parlava di raddrizzare coi figli, diceva che la donna andava raddrizzata. Sì, ma questa l'ha ricordato anche il Pubblico Ministero, per la centesima volta è chiamato queste due righe di un'intercettazione. Tenga presente che lui è stato intercettato per mesi e quindi nel dover gestire 4 ragazzi, a un certo punto ha detto Vuol dire, non fate come mamma che non mi ha avvisato che, come dire, si è sparita ad un certo punto, è caduta in questa crisi, io sono qui per risolvere i vostri problemi, però fate come vi dico io, se un richiamo ad un figlio, mi sembrano, come dire, comunque questi argomenti del tutto irrilevanti fine del processo, nonostante, ripeto, anche di questo il pubblico ministero abbia deciso, ma come credo che avrò modo di dire, esistono imputati molto simpatici che pure però sono colpevoli, ed esistono imputati molto antipatici, quali però non hanno commesso i reati di cui sono accusati. Cioè, dobbiamo, quando ci avviciniamo a un processo penale, scindere razionalmente la percezione del soggetto poi dal fatto. Quello lì è sotto processo per un fatto, non perché se è un buon padre o se ha detto parolacce. Addirittura oggi il pubblico ministero ha richiamato anche, credo, una parte civile, delle espressioni volgari che lui avrebbe detto rivolgendosi ai figli. Ecco. Ritengo questi temi forse mediaticamente, con qualche appeal mediatico, ma processualmente rilevante. Leggevo qualche cronaca, avvocato Marazzita, e leggevo: l'imputato ascoltava impassibile con un mezzo sorriso oggi questa richiesta di condanna a 30 anni. Come sta il suo... Visto. Quello che le posso dire è che io, quando sono intervenuto, essendo anche intervenuto in una fase, diciamo, abbastanza avanzata del processo, nel quale varie scelte erano state adottate, ho posto come prima condizione quella di coordinare tutte le risorse difensive, e quindi l'azione dei difensori e le dichiarazioni dell'imputato, per raggiungere la massima efficacia. Quindi in questa logica devo dire che il mio cliente ha accettato di seguire questa linea, del resto non era anche una condizione, e quindi ha accettato il processo, che è un passaggio importante per essere assolti, perché soprattutto se si rivendica la propria innocenza bisogna accettare il fatto non naturale di essere giudicati da un altro uomo. Avvocato, ci stiamo per salutare, so che comunque si svolge questo processo con rito abbreviato, quindi ci sarebbe in caso di condanna uno sconto di un terzo della pena, però ci sarà ancora molto da capire, il processo andrà ancora avanti, penso, a lungo. Intanto magari ci risentiamo, se lei sarà disponibile, d'accordo? Va bene. Grazie, avvocato Marazzita. Buona serata. Noi ci sentiamo alle 22.